Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora, Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanche io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Allora, fratelli e sorelle carissimi, amici e amiche, piccoli e grandi, meditiamo un po' insieme sulla lettura che abbiamo ascoltato oggi, in particolare diciamo una omelia un po' tipica, nel senso che ci formeremo un po' sul salmo responsoriale, sul ritornello in particolare del salmo responsoriale. Penso di avervi detto in qualche circostanza che il ritornello del salmo responsoriale, così come la preghiera che il sacerdote fa all'inizio della messa, ci danno delle chiavi di letture molto importanti per entrare dentro lo spirito della liturgia del giorno. Noi abbiamo ripetuto: grandi cose ha fatto il Signore per noi. Domanda, questa è una domanda difficile, per i grandi, che i piccoli è quasi impossibile che la sanno. Chi lo sa se Barbara questa la sa? C'è qualche personaggio importante che ha pronunciato una frase simile a questa? Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Qualche personaggio molto importante, Maria di Nazareth, la conoscete la Madonna? Sapete che la Madonna non ha detto quasi niente nel Vangelo, parla pochissimo, purtroppo, non è che c'è qualche apparizione dove ci dice qualcosa, sempre poco, però meglio che niente, no? Lo conoscete il Magnificat, il cantico di Maria? L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi, attenzione, tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, no? Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Già qui la Madonna ci dà una chiave di lettura che c'è in questo salmo, no? Dov'è che il Signore può fare grandi cose? Dove? Dove c'è un cuore umile. E chi è un cuore umile secondo voi? Che cos'è l'umiltà? Sapete come dice umiltà in aramaico, la lingua che parlava la Madonna? Gliela prova detto così a Elisabetta, Mahucha. Sapete che significa etimologicamente questa parola? Chi è la persona umile? Molto difficile essere umili, per voi e per tutti, e per me anche. Colui che sta al proprio posto. E davanti a Dio qual è il nostro posto? Chi siamo noi davanti a Dio? Vediamo un po'. Chi siamo noi davanti a Dio? Qual è il nostro posto giusto davanti a Dio? Perché la Madonna è stata al posto giusto davanti a Dio, è per questo che ha ricevuto grandi grazie. E questo salmo parla di questo, di chi riceve grandi cose dal Signore. Attenzione, attenzione, la Madonna ha detto: il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Il salmo dice: grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. La gioia, la contentezza. Oh, guardatevi un po' in giro oggi, vedete qualcosa di strano in chiesa? C'è qualcosa di strano in chiesa? È tutto normale? Mamma mia, che è successo? Si è impazzito Don Leonardo, se sono impazzite le sacrestane? Che hanno fatto? Che è successo? Perché si fa questa cosa? Oggi, amici, la velatura delle statue, la quinta domenica di Quaresima, è diventata facoltativa, ma un tempo, forse chi c'ha qualche annetto più di me, certo ce ne vuole un po' qualcuno più di me, in tutte le chiese questo si vedeva, dovunque tu andavi vedevi crocifissi e statue velate. E come mai? Che cos'è questa cosa? La ricorderete, no? Perché questo dura fino a Pasqua, quindi 15 giorni, il giorno di Pasqua, quando si riaprono le statue, uno fa: finalmente, io non ce la faceva più. Allora, oggi comincia un tempo, c'entra con quello che stiamo dicendo, è una piccola parentesi però per farcelo capire, che si chiamava e si chiama tuttora tempo di passione. È l'ultima parte della Quaresima, la quinta domenica di Quaresima, è un po' il primo traguardo, siamo arrivati a buon punto, adesso comincia l'ultimo round. Si chiama il tempo di passione, cioè un tempo in cui non soltanto siamo invitati al silenzio, alla preghiera, al digiuno, alla penitenza, ma proprio a guardare, a focalizzare l'attenzione sul mistero di colui che ha sofferto ed è morto per noi. Quindi capite, questo è innanzitutto un segno di lutto, di lutto. La Chiesa comincia a vivere il suo tempo di lutto per il suo Signore che è entrato nella passione e nella morte per tirarci fuori dai guai. Per darci la gioia, il Signore ha dovuto conoscere tutto il dolore in tutte le sue forme possibili e immaginabili. Questo è il primo aspetto. E poi sapete qual è il secondo aspetto, no? Se le statue sono velate, non possiamo guardarle in faccia, giusto? Non possiamo vedere il crocifisso, non possiamo vedere San Giuseppe, lo sappiamo che ci sta perché non possiamo vedere la Madonna. Oh, sapete cosa, a cosa vuole farci pensare, a cos'altro vuole farci pensare questo segno? A molti, troppi per la verità in questi tempi, che vivono nel vuoto di una vita senza Dio, cioè per molte persone il crocifisso è sempre velato, la Madonna è sempre velata, San Giuseppe è sempre velato, semplicemente perché vivono come se Gesù Cristo, la Madonna e San Giuseppe non ci fossero, non ci pensano mai, non gli parlano mai, sono come se non ci fossero, sono completamente nascosti ai loro occhi. E proprio per questi, più ancora di tutti per questi, il Signore è venuto a soffrire per tirarli fuori dal vuoto di una vita senza Dio. Allora, la parte finale del Salmo responsoriale dice una cosa molto importante: chi semina nelle lacrime raccoglie nella gioia, nell'andare se ne va piangendo e porta la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia portando i suoi covoni. Allora, qual è il senso di questo tempo e il senso di tutta la Quaresima? Già finita l'omelia, però anzitutto invito a farvi una domanda, anzi due ne facciamo insieme. Seguitemi con occhi, La Quaresima comincia il mercoledì delle ceneri, giusto? Ce lo ricordiamo tutti quanti, no? Con questo rito austero. E comincia un tempo forte, come ho detto già dalla prima domenica di Quaresima. Facciamoci tutti quanti una domanda. Rispetto al martedì prima delle ceneri, durante tutto quanto questo tempo, cosa è cambiato nella nostra vita? È cambiato qualcosa? O è sempre tutto uguale? Cioè, faccio le stesse cose, penso alle stesse cose, mangio le stesse cose, prego come prima, cioè non è cambiato niente. Se non è cambiato niente, c'è qualche problema, perché il senso e il motivo per cui la Chiesa ci deve vivere questo tempo non è perché non cambi niente, se non l'unica cosa che è chiesta, che è una cosa piccola, spero che tutti quanti la stiate facendo, è l'astinenza dalla carne del venerdì, insomma, che è una cosa molto leggera, insomma. Ma oltre a questo non è cambiato nient'altro? Punto interrogativo. E seconda domanda, da oggi a Pasqua, perché oggi è il secondo step, cosa cambierà nella mia vita? Ecco, Io se accettato un suggerimento, penso che farò anche un bel tweet, forse oggi stesso, in questo tempo bisognerebbe fare un ulteriore switch off, lo dico in inglese. Sapete che cosa bisognerebbe switchare per stare un pochino, avere un pochino più tempo di riflettere un po'? Pensa a Gesù e a quello che ha sofferto per te e chiediti: ma come mai tutto questo dolore fino alla morte di croce? Quest'anno rifaremo tutti quanti i riti, anche il Venerdì Santo, la celebrazione della Passione, poi la settimana prossima della routine degli orari, la Via Crucis fatta come si comanda, se Dio vuole, no? Come mai tutto questo? E poi, nella mia vita, oggi, quanto c'è il Signore? La Chiesa in questo tempo, da qualche parte ancora fa questo gesto del velare le statue per dire: ma la mia vita è con Dio o è senza Dio? La presenza di Dio c'è o non c'è? Quanto è significativa? Quanto lo è stata? Quanto voglio che lo sia? Ecco. Perché grandi cose? Chi era secondo voi la Madonna? Qual era la grande umiltà della Madonna? Che cosa era importante per la Madonna? Cosa pensava la Madonna secondo voi dalla mattina alla sera? A che pensava? Lei c'era soltanto un pensiero. Lei pensava al suo grande Dio e Signore, a piacergli in tutto, a farlo contento, ad amarlo e a dargli gloria. A catechismo ve l'hanno insegnato le catechiste qual è il primo precetto della carità? Se non glielo hanno insegnato, sapete che gli faccio io, no? Gli rompo? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Sapete che questa è la prima cosa che tutti quanti noi dovremmo fare. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Non una volta tanto e tanto così, quando mi ricordo, al primo posto, anzi addirittura l'unico, come già dicevano gli israeliti: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, e quindi tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Quando c'è un cuore così, ha grandi cose fa il Signore, non solo che fa, di tutto fa, e arriva la gioia delle gioie. Allora, non si arriva a questo senza passare attraverso un tempo in cui io devo relazionarmi con la mia vita, vedere come sto collocato e vedere cosa c'è nel mio cuore, qua che sia il Signore. Ecco, questo è un invito. Grande suggerimento è: sapete come chiamava Padre Pio la televisione? Lo sapete voi, piccolini, i grandi lo sanno come la chiamava Padre Pio. Quando andarono a dire a Padre Pio che si era inventata la televisione, si è diventato una belva e non ha parlato con nessuno per tutta la giornata. Sapete come la chiamava Padre Pio la televisione? La chiamava la scatola del diavolo. E poi quando gli dicevano: padre, ma aspetti, non sia così rigido, non sia così drastico, perché ti immagini la televisione quanto bene può fare, portare dentro le case delle persone tante cose, no? Sapete che rispondeva? Sì, in teoria potrebbe fare tanto bene, ma di fatto sarà adoperata per fare tanto male. Insomma, lui, Padre Pio, non ci voglia un po'. In questo tempo, se qualcuno ci avesse il coraggio di spegnerla, si farebbe un grande regalo, ma almeno di ridurne le sfere di invadenze per avere un pochino di tempo per riflettere su cose più importanti. È un po' un piccolo suggerimento, se volete e se credete, credo sia opportuno metterlo in pratica. Siamo lodati Gesù e Maria.